sono qui di se mi vuoi mai. Adesso so che lascerò il meglio e il peggio dietro di me. E anche se ora la mia onda resta indietro, non mi segue più, io continuo ad inciampare. Se mi perdo è soltanto per tornare su. Se mi vuoi, come no, sono stato mai. Sono qui, sono qui. Se mi vuoi, come no, sono stato mai. Deciso per noi.